Rap, linguaggio, cultura, verità. Verità. E questo è il mio messaggio. Siete polli d'allevamento. Siete polli d'allevamento per lo show business. Fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo, fanculo. Ehi, polli, polli, polli, polli, polli. Polli, polli, polli, polli, polli, polli. Ti illudono col sogno americano poco integrato, poco salutato, sopravvalutato dalla media. Durante le interviste non rispondi alle domande perché sei solo commedia. Senza una gavetta hai bisogno di un paroliere, un'etichetta usa e getta, non bada a spese. Faticate ad arrivare a fine mese, siete grilli parlanti, ma l'Italia è un bel paese. Video sorvegliato, prodotto musicale destinato al precariato. Pollo d'allevamento incensurato, finto nell'immagine. Vignetta di un fumetto che impressiona ma che sfuma tra le pagine. Polli, polli, polli, polli, polli, polli, polli, polli, polli, polli, polli, polli, polli, polli, polli. Se il talento è l'ingrediente che ti manca per natura, è il pettegolezzo l'unico espediente che nasconde la paura. La caricatura è l'unico movente per rilanciare la carriera agonizzante di un cantante. Siete solo polli d'allevamento, siete facce da fotoromanzo nei talent show. Meccanici con i sorrisi mobili, robot, fenomeni da circo per fare buon mercato. Con la voce in falsetto, duetti in primo piano, ma non sei nessuno e duri una stagione. Non basta un contratto per farti un nome. Polli, polli, polli, polli, polli. Che in Italia non esiste la meritocrazia, truccata come nelle riviste è una monarchia. Siamo polistrumentisti con in braccio una chitarra che suoniamo nella via. E tu sei popolare ma in un gioco di possessi, quando posti un video commentano gli stessi per tenere in piedi un'amicizia di interessi. Gruppi elitari vivete in catalessi e questi sono i tuoi biglietti da visita. Punti alla classifica, non vende più la musica se non quella meccanica di plastica che dà sollievo. Io l'antipatico e tu la lievo. Polli, polli, polli, polli, polli, polli, polli, polli, polli, polli, polli, polli, polli, polli. E che non hai la voglia di confrontarti, menefreghismo, paura che qualcuno ti ribalti, che faccia i tuoi passi. Tu non cedi contatti, ingabbiato dai fatti. Un artista è capace di creare ma non copia, si guadagna la conquista. Le attenzioni non facendo la rivista, le opinioni della gente lui stesso le depista. Attenzione, chi ha talento viene cercato, chi non ha talento deve cercare un nome. Attenzione, chi ha talento viene cercato, chi non ha talento deve cercare un nome. Coglione.